peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi si potrebbe dire che uno sguardo agli angoli della terra, in tutto sommato da tempo si sa che il jazz ha trovato radici profonde in tutte le culture, anche le più lontane tra di loro. E oggi un po' per caso, comunque anche per prendere in esame alcuni dischi usciti recentemente, e ascoltiamo musicisti che provengono dalle parti più lontane del mondo, cominciando con la profonda Africa, l'Etiopia. Non è certamente una terra questa che prolifica di grandi talenti jazzistici, però tutto sommato già da un po' da diversi anni si svolge un festival ad Addis Abeba, c'è un'attività particolarmente vivace condotta dalla Ether Orchestra, quindi un'organizzazione musicale che si mette anche al servizio, anche con incontri e session di un certo interesse. Sono diverse poi le occasioni che hanno comportato la registrazione, insomma, anche in discografica, di queste esperienze. Però sicuramente il musicista più anziano che da più tempo si è avvicinato al jazz è un sassofonista, che appunto è venuto un po' alla luce negli ultimi anni grazie al gruppo degli Ex, soprattutto alla chitarra di Andy Moore, chitarrista Andy Moore, che ha recuperato questo anziano, quasi ottantenne, Gattatkes Mecuria, è venuta anche peraltro a Bologna, insomma si propone con diverse tournée. Mecuria è una voce interessante, non è un grande talento, bisogna pur dirlo, però è sicuramente interessante la testimonianza che viene proposta in questo disco doppio, uscito abbastanza recentemente, che dà appunto, vengono raccolte diverse testimonianze di concerti nelle varie tournée effettuate, dove ci sono anche ospiti di rilievo, come per esempio Ken Vandermark, ma sono anche presenti un paio di brani che risalgono all'inizio degli anni 60. È uno spaccato di quello che è il mondo espressivo di questo sassofonista, che è isolato in un continente che è la radice, del jazz, ma che sicuramente non è da tempo la terra dalla quale escono i talenti più interessanti. Ascoltiamo alcune di queste registrazioni. Le prime due sono registrate un anno fa in giro per l'Europa da una formazione allargata, appunto, dove vede sostanzialmente poi la direzione, il coordinamento da parte di Andy Moore alla chitarra, insieme poi ad altri collaboratori, tra i quali appunto, come dicevo, anche Ken Vandermark. Ascoltiamo un paio di queste composizioni. Thank you. Thank you. suono del sassofono di Macuria è particolare, ha un fraseggio che lo può avvicinare all'utilizzo dei vari strumenti a danza doppia che vengono usati nell'Africa, sia del nord che anche del Centro Africa, e riprende anche questi giochi, questi disegni melodici che sono del mondo africano. Quindi è interessante l'utilizzo di questo sax molto vibrato, un vibrato molto, molto sporco, molto diciamo abbastanza stonato, che però riesce a dare un grande vigore, una grande espressività. I brani che abbiamo ascoltato sono naturalmente presi dalla tradizione popolare africana e danno una struttura da nenia, sono piuttosto lenti, quindi è una danza anche questa, come peraltro poi tutte le cose che suona Macuria, ma in questo caso viene privilegiato, diciamo, l'aspetto dei tempi medi. Questi erano presi dal primo dei due compact. Nel secondo si vedono altre formazioni, alcune con DCP Orchestra e altre appunto che continuano ad essere con questa formazione degli ex. Escono gli ospiti che erano presenti in questa prima parte, come Vandermark o Walter Wierbus al trombone, però diciamo che la vitalità e l'espressività rimangono elevate. Ascoltiamo un brano da questa serie di concerti dati negli Stati Uniti in questo caso. Thank you. Questo era il sassofono di Mercuria. Mercuria, anziano sassofonista, 78 anni, proveniente dall'Etiopia, con l'accompagnamento da parte della formazione degli Ex, questi musicisti nati poi nell'ambito della musica punk e di un certo rock d'avanguardia trasversale, le loro collaborazioni con Tom Cora sono state probabilmente il punto più rilevante della loro lunga carriera, poi peraltro. Un disco interessante proprio perché testimonia perlomeno in parte quello che è il pathos che comunica la musica di questo sassofonista, questa sorta di ensemble tribale che dal vivo sicuramente esprime i massimi. Questo quindi, abbiamo cominciato con l'Etiopia, passiamo a un'altra parte del mondo, direi opposta, che è il Giappone. Il Giappone peraltro è probabilmente il paese che ha maggiormente curato e accolto il linguaggio jazzistico ormai da molti anni, sono molti musicisti che provengono da quei territori e che hanno espresso delle qualità musicali straordinarie. Una di queste è senz'altro Aki Takase, una carriera particolare la sua, perché la maggior parte dei musicisti giapponesi, diciamo che la loro attività si svolge come un ponte tra il Giappone e gli Stati Uniti, oppure se non addirittura gli Stati Uniti. Aki Takase è un percorso diverso, intanto nasce nel 48, quindi ormai ha già 65 anni, e fino all'inizio degli anni 70 ha lavorato e cresciuta musicalmente in Giappone, costituendo i primi gruppi, le prime esperienze musicali nel suo paese. Poi diciamo che il paese di riferimento non sono stati gli Stati Uniti, anche se poi vi si è recata diverse volte, ha lavorato in diverse occasioni negli Stati Uniti, ma soprattutto nella Germania dell'Est. Attualmente vive a Berlino, la sua attività si svolge soprattutto nell'ambito di Berlino e della Germania. Ha una personalità particolare, un'attenzione a quello che è i vari linguaggi dell'avanguardia, ma anche un forte richiamo con la tradizione della musica jazz, la tradizione più, cioè diciamo la prima tradizione, quella degli anni 20, quella degli anni 30. È uscito recentemente, anzi direi in questi giorni, un disco dedicato alle musiche di Duke Ellington. Non è la prima volta che Ellington è oggetto di omaggio da parte della Takase. In questo caso però è un disco in solo, in piano solo, sono 13 composizioni di Duke Ellington rivisitate, rilette, viste attraverso questa angolazione particolare che riesce a dare l'intelligenza musicale di Aki Takase. Ascoltiamo un brano, forse uno dei più conosciuti di Ellington, anche se poi non è di Duke Ellington come composizione, ma di Tisol, ed è Caravan. Ascoltiamo questa interessante lettura, peraltro un tema che è stato interpretato in un'infinità di volte, e quindi non è facile anche dire qualcosa di originale su questo brano. Thank you. Thank you. Questo era Caravan, suonato da Aki Takase, una interpretazione che fa riferimento forse anche ad altre personalità interessanti come Ram Blake o anche di più come Mischa Mengelberg, la capacità di cercare nelle armonie e nella sintesi del suono, quindi lo spazio anche per lasciare la risonanza di nota per nota di questo tema. Quindi una lettura un po' stralunata, un po' distaccata, che però ha un grande interesse, una grande personalità, dimostra un'importante personalità artistica della Takase. E quindi dal Giappone un altro angolo della terra, l'ultimo, è il nord, la Norvegia. I paesi del nord Europa sono ormai da tempo un terreno fertile per proposte nuove, per musicisti che esprimono poi questo punto di incontro tra l'esperienza del jazz e la musica popolare o le tradizioni popolari del nord Europa. In questo caso è una relettura un po' particolare, è un musicista, un giovane in questo caso, che solo da 2 o 3 anni si è presentato sulla scena discografica e ha già proposto cose molto interessanti. Quest'ultimo lavoro, il secondo poi direi a suo nome, è intitolato Birds, una formazione di piccola orchestra, dà un'importanza fondamentale alla struttura delle composizioni, è piuttosto ricca anche la timbrica, quindi ha una sensazione orchestrale. Le suggestioni che si possono cogliere vengono dalle parti più disparate, non soltanto nell'ambito jazzistico, al quale poi si riferisce secondo anche una tradizione legata a Michael Brecker o altri che negli anni 70 hanno avuto una presenza molto forte negli Stati Uniti, ma anche a musiche per film, a musiche per danza, ha una trasversalità che poi è frequente in musicisti di questa provenienza, che è una visione piuttosto scanzonata, senza porsi tanto il problema delle definizioni, ma riuscendo poi a esprimere un insieme e anche una qualità solistica di alto livello. Ascoltiamo Marius Neset, questo sassofonista decisamente interessante. Thank you. Thank you. Questo era il tema principale, diciamo, Birds, che anche dà il titolo all'album, di Marius Neset, questo giovane sassofonista e arrangiatore norvegese. La struttura della composizione è molto, molto accurata, molto complessa da un punto di vista ritmico, con una timbrica che richiama anche i temi dei musical, il tipo d'arrangiamento così molto espressivo, molto esuberante. La qualità è decisamente buona ed è interessante il risultato che ne deriva. Ci sono più momenti, anche un'articolazione molto piacevole, molto, molto godibile, e che però ha un contenuto di qualità dal punto di vista musicale. Ascoltiamo altre due composizioni, direi che danno aspetti diversi, comunque dello stesso tipo di impostazione. Primo tema, Spring Dance, sono tutte composizioni naturalmente di Marius Neset, composizioni e arrangiamenti, e il brano conclusivo anche dell'album, che si intitola Fanfare, ed è una degna conclusione gioiosa di questo disco. Thank you. Questa era la formazione, una piccola orchestra, un ottetto, di Marius Neset, un giovane sassofonista norvegese che sicuramente si sta segnalando come uno dei talenti più interessanti del Nord Europa. Era l'ultimo ascolto per oggi e la trasmissione, vi ricordo che potete ascoltarla in podcast nel nostro sito radiocittafujiko.it, nella sezione musica, e troverete anche tutte le informazioni sui dischi che abbiamo ascoltato. Questo è tutto, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo.